Friuli nel mondo, 188esima trasmissione dedicata agli emigrati. Villotte, poesia friulana. Queste villotte sono la testimonianza e l'espressione più pura della voce dei nostri ridenti borghi e delle nostre serene vallate. Sono la semplice poesia del Friuli espressa in canto con purezza di sentimento e di immagini. Dal coro Grion di Monfalcone, diretto dal maestro Aldo Policardi, vogliate ascoltare Flores di Prat, seconda rapsodia di Villotte, arrangiamento di Pian. Non scherzà, di Cesare Augusto Seghizzi. Non stava i bambine, dello stesso autore. Curiositat, di De Peris e Pian. La Roseane, di Arturo Zardini. Culto bon, culto bon, mi sante pas. Siamo certi, cari amici lontani, di avere con questi canti riportato per un momento nel vostro cuore il cocente, nostalgico ricordo del vostro Friuli. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.